Eccoci insieme nel nostro ultimo appuntamento della settimana, venerdì sera, spazio di Arden Davy dal vivo, la voce di Marco Gravelli con voi per i nostri 60 minuti suddivisi come sempre nelle due parti, la prima incentrata con il mondo hard rock, in questo caso direi quasi un hard AOR con i Night Ranger che saranno i protagonisti di questo spazio live della prima mezz'ora, nella seconda invece i Creator. Come sempre ringraziamo il nostro sponsor Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1 a Milano. Sito internet www.mariposadischi.it. Per quanto riguarda il nostro Simone, beh, è lui l'autore di tutti i testi e in particolar modo il venerdì delle note biografiche della band, delle band in questione. Partiamo allora, abbiamo detto, con i Night Ranger. Prendiamo in esame il secondo album dal vivo della loro carriera, uscito nel 1997. Il precedente era uscito 7 anni prima, nel 90. Si compone di ben 18 tracce, delle quali 2 sono assoli di chitarra, registrate durante il tour in Giappone. Non per niente l'album si intitola, anzi il CD, Rock in Japan 97. Era un tour della loro reunion con lineup originale avvenuta un anno prima. Questo album è stato anche ripubblicato 2 anni dopo, nel 99, col titolo di Rock in Japan Greatest Hits Live, perché, come spesso accade, ci sono tutti i loro motivi più importanti e rappresentativi della carriera. La lineup: Jack Blades, basso e voce; Brad Gillis e Jeff Watson, chitarra e cori; Alan Fitzgerald alle tastiere e Kelly Keighley a batteria e voce. Come avete sentito, nomi piuttosto illustri. Allora, la band è americana di San Francisco. Partiamo con il primo pezzo, si intitola Touch of Madness, la cui versione in studio si trova nell'album dal titolo Midnight Madness. Get off when I want to. Don't you wanna be the two? finale del brano dal titolo Touch of Madness, incisione spettacolare, registrato proprio in Giappone all'Akasaka Blitz di Tokyo l'8 di aprile del 1997. Veramente un bel live, ve ne renderete conto di brano in brano. Questa era Touch of Madness, tra parentesi questa che è appunto l'incisione originale e la pubblicazione del CD giapponese, aveva anche una cover addirittura tridimensionale in copertina, veramente molto molto molto accattivante. Continuiamo con le specifiche di questa band che vi ho citato. Nasce in quel di San Francisco nel 1979, gruppo che ha ottenuto grande successo negli anni 80, poi piano piano, come spesso purtroppo accade, la loro notorietà nel corso degli anni è calata. La band nasce grazie al bassista Jeff Blades con il chitarrista Brad Gillis, dopo essere fuoriusciti da un'altra band pop rock americana che erano i Rubicon, alla quale si aggiunge il batterista Kelly Kigay. Ingaggiano poi il tastierista Fitzgerald proveniente dai Montrose e il chitarrista Jeff Watson. In principio si chiamavano Stereo, per poi cambiare nome in Ranger, però durante le registrazioni dell'album d'esordio vengono a sapere che quel nome, cioè Ranger, era già di un'altra band. Così nello 1982 lo cambiano nel definitivo Night Ranger, che è anche una delle tracce presenti sul loro album d'esordio. Altra canzone che andiamo a proporre è estratta dall'album intitolato Down Patrol nella versione originale in studio. Questa è Don't Tell Me You Love Me da Rockin' Japan 97 Night Ranger. Don't tell me you love me. Ragazzi, questi suonano e suonano di brutto. Brad Gillis, Jeff Watson, i due chitarristi. Se non conoscete Night Ranger, penso che questa sia una buona occasione questa sera in Arden Devi Live per poter conoscere e apprezzare alcuni successi di questa band. Don't Tell Me You Love Me, dal loro primo album Down Patrol, perché è proprio nell'82 che pubblicano il loro album d'esordio, che si intitola proprio Down Patrol e che arriva subito al numero 38 delle charts di vendita americane. Ancora meglio va con i due seguenti album, Midnight Madness dell'83 e Seven Wishes dell'85, quindicesimo e decimo in America con dischi di platino, quindi più di un milione di copie vendute. Tenendo conto di questi risultati, le cose cominciano piano piano a scendere lentamente, già col quarto album Big Life dell'87 che arriva solo al 28esimo posto. Ancora peggio andò con Man in Motion del 1988, che si segnala come il loro primo album a non ottenere né disco d'oro né tantomeno di platino, quindi a non superare le 500.000 copie vendute. Un altro brano che andiamo a proporvi è stato un singolo che è arrivato nei primi posti dall'album Midnight Madness, quindi praticamente il loro secondo album. Andiamo a proporre questa canzone che si intitola Sister Christian, Night Ranger. Sister Christian, oh, the time has come, and you know that you're the only one to say. Okay, where you go and what you looking for? You know those boys don't wanna play no more. In life, don't you give it up before your time is due. I think it's true and I know it's true, baby. It's true. Yeah. Motorhead, what's your price for flying? You got him in your sight. Sister Christian dal live Rock in Japan 1997, che vi consiglio caldamente se amate i live. Soprattutto tenete conto che, vi dicevo, l'incisione è spettacolare, almeno questa che è il CD originale proprio giapponese, oltre alla bravura naturalmente della band. Siamo nel 1989 quando il bassista Blaze lascia il gruppo e crea insieme a Tommy Shaw, chitarrista degli Styx, e all'altro chitarrista Ted Nugent, insieme al batterista Michael Cartellone, il supergruppo chiamato Damn Yankees, che pubblicano due album che vendettero moltissimo in America, quello del 90 e del 92. Il posto di Blaze fu preso da Gary Moon, non Gary Moore, Gary Moon come luna, mentre anche il chitarrista Jeff Watson lascia la band. Con una nuova lineup esce nel 1995 l'album Feeling of the Mojo, che passa quasi inosservato. Questo porta alla reunion del 1996 col ritorno di Blaze al basso insieme agli altri membri della formazione originale che avevano inciso i primi album, i primi due. Partono così in tour e arrivano in Giappone nel 1997, dove registrano questo live che vi sto presentando. Il Giappone si rivelerà la nazione dove avranno ancora un buon successo, dove furono ben accolti due successivi album, Neverland del 97 e Seven del 98, mentre in America restano lontani dalle classifiche. Pezzo che chiude il concerto, poi noi ne ascolteremo un altro, canzone di altro singolo di grande successo, questo brano che si intitola You Can Still Rock in America, versione 97, perché il concerto è proprio stato registrato nel 97. Night Ranger! And you can still rock! Well, you can still rock in America. Rock in America. Rock in America. Well, yeah, you can still You can still rock in America, la formazione dei Night Rangers. Siamo alle ultime battute della loro storia che andiamo a segnalare. Siamo praticamente nel 2004 come annata, quando in quell'anno praticamente viene pubblicato, cioè il cambio di tastierista, l'ingresso di Michael Lardy, che era fuoriuscito dalla formazione dei Great White ed entra a far parte proprio del gruppo in questione. Negli ultimi due anni ci sono da segnalare l'uscita di nuovo dalla band di Jeff Watson e la sostituzione del tastierista e soprattutto un nuovo album che è uscito nell'aprile del 2007 dal titolo All in the Sun per l'etichetta italiana Frontiers Record. Chiudiamo il nostro spazio con le note di questa canzone che si intitola Sing Me Away dal loro primo album, perlomeno la versione in studio, dall'album Down Patrol. La formazione è quella dei Night Ranger, oggi ascoltata in Hard and Heavy Live con questo bellissimo Rockin' Japan 97. We'll be right back. Inizia la seconda parte del venerdì con Arden Davy live, insieme alla voce di Marco Gravelli su Rock FM. Dopo il bellissimo lavoro dei Night Ranger dal vivo, altrettanto bello questo lavoro per i Creator. Si intitola Live Creation, doppio CD, uscito a metà del 2003, è il primo e unico CD dal vivo per la storica band di speed thrash metal tedesco. Album che è arrivato alla 59esima posizione delle charts proprio in Germania. Ci sono 23 brani più un intro, 13 tracce sul primo, 11 sul secondo CD. È disponibile, vi segnalo, anche una limited edition con un booklet di ben 36 pagine e soprattutto un bonus DVD dal vivo con un intero concerto video. L'album è stato registrato molto molto bene, l'audio è veramente perfetto, mixato dall'esperto del genere Andy Snip. Per gli amanti, diciamo, del trash, è un album consigliatissimo. La formazione stabile dal 2001, formazione con la quale è stato registrato appunto questo Live Creation, con la K come il loro nome, cioè Creator. Milli Petrozza, voce e chitarra, Sami Healy Sirnio alla chitarra, Christian Geisler al basso, Jürgen Vento Rail alla batteria. Il pezzo con il quale apriamo il nostro spazio e apre anche questo concerto è Violent Revolution Creator. Fire! questa è l'apertura di questo concerto, incisione come vi dicevo veramente ottima, Live Creation, sono i Creator, questa era Violent Revolution, celebre speed thrash metal band che arriva esattamente dalla città di Essen, siamo naturalmente in Germania. Dobbiamo ancora dire che il leader è il cantante chitarrista Milly Petrozza, che insieme al batterista sono gli unici elementi storici a tutt'oggi della band. Nascono nel 1982 col nome di Tyrant, cambiato presto in Tormentor, e due anni dopo nell'84 viene di nuovo cambiato nel definitivo Creator. In principio si trattava di un trio. Nell'85 arrivano all'album d'esordio l'ottimo Endless Pain. Dopo neanche un anno arriva il loro capolavoro, considerato un classico del genere, cioè Pleasure to Kill, che gli valse il primo tour oltre alla pubblicazione anche di un EP. Andiamo ad ascoltare un altro brano che si intitola Extreme Aggression. La formazione che stiamo presentando è quella dei Creaton. Che è anche il titolo del loro quarto album. In effetti abbiamo parlato dei primissimi lavori naturalmente nella storia della band dei Creator in occasione del terzo album Terrible Certainty del 1987. C'è da segnalare l'ingresso nella band di un secondo chitarrista e anche questa volta viene poi pubblicato un EP. Questo successo crescente li porta al quarto album, di cui abbiamo ascoltato il brano che dà il titolo, cioè Extreme Aggression, e siamo nel 1989. Questo album fu trascinato anche nelle prime posizioni delle classifiche di vendita in Germania, anche dal singolo Betrayer, del quale fu realizzato un video che venne trasmesso anche da MTV. Segue il cambio del secondo chitarrista a favore di Frank Blackfire, proveniente dai connazionali Sodom. Con lui pubblicano nel 1991 l'album dal titolo Coma of Souls. Altro pezzo importante che andiamo a proporre è quello che dà il titolo al loro primissimo album, ovvero sia al loro secondo album, ovvero sia Pleasure to Kill, Creator. Pleasure to Kill da Live Creation, unico CD dal vivo dei Creator, uscito a metà del 2003, questo era appunto Pleasure to Kill. Arriviamo ad un periodo cruciale per la band, che tenterà di evolvere il proprio sound, però con risultati alterni. Da prima arriva nel 1992 l'album Renewal, dal sound più commerciale rispetto al passato, che non viene particolarmente apprezzato dai fan di vecchia data. A questo punto cominciano i problemi di line-up con l'abbandono del bassista Rob Fioretti e del batterista Rail, oltre al secondo chitarrista. Così Petrozza si trova a dover formare una nuova formazione, con la quale esce nel 1995 Cause of Conflict, che li fa entrare nelle classifiche tedesche al 48esimo posto. Segue il rientro in formazione del batterista Rail e la pubblicazione di Outcast, siamo nel 1997, e poi, due anni dopo, esce il discusso Endorama, tendente al gothic rock, che spacca in due i giudizi dei loro fan. Un altro brano che vado a proporvi si intitola Awakening of the Gods, la cui versione in studio si trova nell'album Violent Revolution. We'll be right back. carried away. Time is involved with your life and your death. Joining your mind and it's only a test. Heaven is from you, live out to watch you. Are you sure? Real love. See their eyes, filled with lies. Watch his slaughter, endless lies. Make you cry, make you try. You know we are helpless, the end of time. Waiting out the guts. Burning ambitions, you're lost in your will. Your blessed life goes in the field. Days of laughter, days of crying. Into your fear of a photo time. Nothing is real, nothing is real. Nothing's important, the way you feel. This has been the only life. It will begin when you die. No one can imagine where you will be. Whether you speak for your blood, you will see. Planting the choices of life in any way. Watching the children and every singer go. Be their eyes, filled with lies. Watch the slaughter, endless lies. Make you strive, make you try. Know we are helpless, the end of time. Waiting off the gods. Le note del motivo dal titolo Awakening of the Gods per la formazione dei Creator che vi stiamo proponendo con alcuni brani, non tutti perché abbiamo detto che questo Live Creation è addirittura un doppio CD. Continuiamo a parlare di loro e della loro storia naturalmente, che come al solito ringrazio il nostro validissimo Simone per aver preparato il tutto. Arriviamo nel 2001 con l'ultimo cambio di formazione, con l'ingresso del chitarrista Sami, con il quale incidono Violent Revolution, che li vede tornare alle vecchie sonorità trash che arrivò al numero 38 in Germania. Visto la credibilità riconquistata, registrano questo live nel 2003. La convinzione di suonare il trash che li ha resi celebri è confermata anche con la loro ultima uscita del 2005, Enemy of God, che si è rivelato uno dei loro migliori album, oltre ad aver raggiunto la 19ª posizione in America. Il prossimo pezzo fa parte del loro album d'esordio Endless Pain, li troverete naturalmente la versione in studio, questa è quella dal vivo, si intitola Tormentor. Tormentor. Questi sono i Creator, la band, ricordo per concludere, che quest'anno comincerà a scrivere e registrare il nuovo album, la cui uscita è prevista comunque per l'anno prossimo, ovvero sia per il mese di gennaio del 2009. A detta della band sarà musicalmente brutale e melodico. Prima dell'ultimo brano era il singolo Betrayer, citato dall'album Extreme Aggression del 1989. Io ringrazio Simone, il nostro autore, ringrazio voi per avermi seguito. Mi sembra di aver proposto e presentato due splendidi prodotti: Night Ranger dal vivo in Giappone del 97 e questo Creator del 2003. Tutte e due album consigliatissimi su CD. Un grazie ancora al nostro sponsor Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1 qua a Milano. Ricordo che se vi perdete qualche puntata di Hard and Heavy, nessun problema, le trovate, le potete ascoltare in streaming dal nostro sito www.radiorockfm.com in archivio programmi. Scegliete poi la data che volete di Hard and Heavy. Da Marco Gravelli è tutto, vi rimando al prossimo lunedì dalle 20 alle 21 sempre su Rock FM con Hard and Heavy. Ciao ciao! Ciao!